tela longa, longa, longa, longa. Stretulli, la stretulli. Ado stacchi, mia, innamorate. Non stund ancora. Sta piarrella non sciagura te a tu se non movendo dico credo no a tu se non voghi che stanca chiagnere scalina della sai cammella trova me porta vacchella sciagura te a che la si innamora non ubitore che vita che prepara la forastiera e day.